AVS Media Demo. Giusto una domanda al volo, è una delle più attive all'interno del comitato che ha occupato il palazzo del centro storico. Un commento su questa notizia che il prefetto vuole trasferirsi di lavoro? Ma davvero? Stamattina? No, non posso credere, è impossibile, ma stiamo scherzando. AVS Media Demo. Ma in generale come si vive in una casa occupata e soprattutto quali sono i problemi? Secondo te un problema, da che cosa lo vivi? Dal bisogno di avere una casa, perché se no non la occupi, allora tu hai... AVS Media Demo. Dire con soldi pubblici, soldi nostri, non la vogliamo a titolo gratuito, non la vogliamo a riscatto. Non chiediamo niente, è impossibile. Però le istituzioni finora hanno dato risposte poco concrete. Niente, è stato dato... AVS Media Demo. Però non abbiamo avuto risposte. La ringrazio.